Friuli nel mondo, rapsodia del 4 novembre, quindicesima trasmissione dedicata agli emigrati. I morti tra lo Stelvio e il mare, ai quali appartiene intero il 4 novembre, giorno che ebbe a suggello il bollettino della vittoria. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 ottobre scorso e alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cecoslovacca e un reggimento americano, è finita. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli discese con orgogliosa sicurezza. Non dimenticati i caduti dell'Ortigara e del Grappa, del Piave e del Montello, i cui resti raccolti nei sacrari che costellano i campi di battaglia del Veneto mantengono accesa la corrispondenza d'amorosi sensi del cantore dei sepolcri. Ne rinverdiscano la memoria le stesse campane che alle ore 15 del 4 novembre 1918 annunziarono all'Italia in trepida attesa l'armistizio di Villa Giusti, nell'ora medesima in cui nella pianura friulana, al bivio di Paradiso, cadevano gli ultimi soldati nostri nel tentativo di portare il più avanti possibile il tricolore vittorioso. Ma se tutti ci sono presenti, rievochiamo stasera per tutti i sepolti ai confini orientali, dove la lotta avampò più lunga e più aspra. Di sacrario in sacrario, un canto di allora, a cominciare da Timau, dove le fiere donne di Carnia pregano la biele stele e duci sante il paradiso, perché il Signor fermi la guerra e il mio ben torni al paese. All'interno del santuario ossario del Cristo, in quel remoto paesello a contatto con la verde Carinzia, la tomba di una giovane madre, mortalmente ferita, mentre portava nella gerla viveri e medicinali agli alpini in trincea. Unica donna in mezzo a 3.000 caduti nella disperata difesa dei loro focolari. Su ogni cippo, su ogni croce, dovunque riposi in terra italiana un soldato, qualunque ne sia la nazionalità, mani pietose si sono chinate in questi giorni a deporre un fiore. Così fosse per tutte le tombe dei nostri, dai deserti africani alle steppe russe. Soli, a specchio dell'Isonzo, gli 8.000 del santuario di Sant'Antonio a Caporetto, cullati dal brusio del fiume e da un motivo d'epopea. Prete nero traditor della patria mia, ho lasciato la casa mia per venirti a conquistare. E per venirti a conquistare abbiam perduto molti compagni, tutti giovani sui 20 anni, la lor vita non torna più. Nel corso della battaglia di Plava fu sepolto dai compagni sulla sponda destra dell'Isonzo, ma dopo la vittoria non ne fu rinvenuta la salma. Si sa soltanto che Giosuè Borsi, il quale sentiva di non tornare, aveva con sé alcune medaglie benedette, la Divina Commedia e il ritratto della madre, che furono macchiati del suo sangue. Tre ricordi, tre simboli, annota un suo biografo. E a suggello dei mistici colloqui che alla vigilia della prova suprema lo avevano riaccostato a Dio, l'ultima lettera alla madre, un capolavoro di grandezza morale, consegnatale dopo la morte di lui. Vi si legge, tra l'altro: pensate spesso a noi altri, quassù. Parlate di noi tra voi. Ricordateci spesso e amateci come vivi, perché noi saremo sempre con voi. Vita mia, o core, de chistu core, sei stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai per me. Appassionata invocazione, densa di presentimenti,